Georgina. Siku uliondoka uliniacha nalia na machozi. Umekwenda kuishi mbali nami Georgina wa mama. Sipati usingizi nikikumbuka tulivyoishi mimi nawe Georgina. Georgina, Georgina.